Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Il primo che non deve essere distratto è il sottoscritto, per riuscire a rendere al meglio in quelli che sono i 30 minuti di ciascuna delle quattro parti che costituiscono ogni settimana di Ecletica. Questa è la terza, un benvenuto da parte di Giulio Caperdoni. giulio@radiorockfm.com è l'indirizzo di mail a cui scrivere per una serie di motivi diversi. Fra questi c'è per esempio la possibilità di vincere biglietti, e questa settimana vi regalo Nico Case alla Casa 139 di martedì 9, Two Gallants alla Casa 139 giovedì 11, e poi per quanto riguarda invece lo Zero Music Club, dove ho messo il foglio, vediamo un po' se senza allontanarmi dal microfono riesco a recuperarlo, dovrebbe essere da queste parti, non lo trovo, comunque poi lo troverò. Ricordatemi che vi devo dare la data di venerdì dello Zero Music Club, del concerto di cui ho la possibilità di mettere in palio qualche biglietto. Vediamo quindi di partire con questa terza parte di Eclettica, con parole che non sono mie e con musica che non è mia. Il vento, venendo in città da lontano, le porta doni inconsueti di cui si accorgono solo poche anime sensibili, come i raffreddati del fieno, che starnutano per pollini di fiori d'altre terre. Un giorno, sulla striscia d'aiuola ad un corso cittadino, capitò chissà d'onde una ventata di spore e ci germinarono dei funghi. Nessuno se ne accorse, tranne il manovale Marco Valdo, che proprio lì prendeva ogni mattina il tram. Aveva questo Marco Valdo un occhio poco adatto alla vita di città. Cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, per studiati che fossero a colpire l'attenzione, mai fermavano il suo sguardo che pareva scorrere sulle sabbie del deserto. Invece, una foglia che ingiallisse su un ramo, una piuma che si impigliasse ad una tegola, non gli sfuggivano mai. Non c'era tafano sul dorso d'un cavallo, pertugio di tarlo in una tavola, buccia di fico spiaccicata sul marciapiede che Marco Valdo non notasse e non facesse oggetto di ragionamento, scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri del suo animo e le miserie della sua esistenza. Questo era l'incipit di Marco Valdo di Italo Calvino. We'll be right back. Thank you. Questa è eclettica per come si è aperta oggi. Già sono passati più di 10 minuti di trasmissione, fra di loro molto, molto omogenei. Ci siamo ascoltati due dischi, uno proveniente dall'Italia, l'altro invece a cavallo fra l'Europa e gli Stati Uniti. Partiamo dal primo, che è anche la prima prova di lunga durata degli Ether, duo, inizialmente duo fiorentino, ora è diventato un trio che ben conosciamo in eclettica, quando in eclettica c'era lo spazio Demolition. Ricordate, ne parlammo di loro appunto in Demolition. Ora escono per Musiche Lab con Intimo Personnel, se questo è il titolo del loro disco. Vi dicevo che ora sono diventati un trio. Noi ci siamo ascoltati la traccia che apre questo album, Every Kebab, un disco molto vario al suo interno, diverse sfaccettature della forma musicale elettronica. Noi ce ne siamo ascoltati già una, chissà mai che nelle prossime settimane in Eclettica andremo ad ascoltare anche altri brani da questo disco degli Ether. E poi vi dicevo, a cavallo fra Europa e Stati Uniti, infatti a cavallo fra la Germania, l'ex Germania dell'Est e San Francisco, una collaborazione che vede assieme su disco, dopo che già avevano collaborato in altre situazioni, AGF e SUC, un po' difficile da dire, AGF e SUC. Ok, leggetelo nella playlist, lì sicuramente non mi sbaglio. Ora non ci ritento più perché risbaglierei di nuovo. Mini Movies invece è il titolo di questo disco, o meglio di questo doppio. I due dischi sono in un caso un CD, nell'altro il DVD. Si cerca appunto di mettere a fattor comune l'arte visuale e l'arte musicale. Sicuramente non sono i primi che cercano di farlo, loro lo fanno in maniera molto ambiziosa. Non ci siamo ascoltati un indizio, ma chiaramente per radio manca la parte visuale. Marzipan è il titolo del brano che ci siamo ascoltati in Eclettica. Rimaniamo negli Stati Uniti, ma vediamo di alzare i ritmi della trasmissione con un trio proveniente dall'Arkansas. Ovviamente sto parlando dei The Gossip. You are. Look at the size of that boy's head. Shh. I'm not kidding. It's like an orange on a toothpick. Shh, you're gonna give the boy a complex. Well, that's a huge noggin. It's a virtual planetoid. Shh. Has its own weather system. Shh. Heed, move! Well, it's a well-known fact. We have incorporated place your bets. We're all so sick of waiting, Queen takes Jack. You got me this time, but I'll get you back. So pick a number two or the ones who tried the most. Was I supposed to cheer? Ces étendues désertiques, ces collines, montagnes de dunes, une caravane passe de lignes de sable. Derboca, frappe-moi de ton son, de ta mémoire. C'est ta peau, celle du temps qui me réchauffe le cœur. Un parchemin, un message qui respire, je pense à eux. À ces peuples du désert, ces Touaregs, ces tuniques vêtues de bleu. Aux mille vertus, aux lumière date de l'aube, à la rosée fraîche du matin sagesse. Écoute le son de la pluie, écoute le son du vent, écoute le son de la pluie, écoute ce qu'elle te dit. Écoute le son du vent, écoute le son de la pluie, écoute le son du vent, écoute ce qu'elle te dit. Ces étendues désertiques, ces collines, montagnes de dunes, la caravane passe de lignes de sable. Derboca frappe-moi de ton son, de ta mémoire. C'est la bocelle du temps qui me réchauffe le cœur. Un parchemin d'un message qui respire, je pense à eux. À ces peuples du désert, ces Touaregs, ces tuniques vêtues de bleu. Aux mille vertus, aux mille prières datent de l'aube. À la rosée fraîche du matin, sagesse. Écoute le son de la pluie, écoute le son du vent, écoute le son de la pluie, écoute ce qu'elle te dit. Écoute le son du vent, écoute le son de la pluie, écoute le son du vent, écoute ce qu'elle te dit. Écoute le son de la pluie, écoute le son du vent, écoute le son de la pluie, écoute ce qu'elle te dit. Écoute le son du vent, écoute le son de la pluie, écoute le son du vent, écoute ce qu'elle te dit. Fino ad ora, negli anni, quando in Eclettica ho trasmesso brani per la Bellezza Records, erano sempre stati artisti brasiliani. Invece in questo caso un artista francese, però di origine algerina, il nome preciso è Kada Churi, ma lui si fa conoscere solo come Kada Koulevan, e questo è il titolo del brano che ci siamo ascoltati, estratto dal suo nuovo album. E rimaniamo su questi territori di artisti di grande valore, ma non di così chiara fama. Andiamo infatti in Inghilterra, dove nel mese di aprile, il 24 di aprile per essere precisi, per la Blueport Recordings è uscito il nuovo disco di David McAlmont, musica direi assolutamente tradizionale, però è soprattutto la voce che colpisce, l'estensione di questa voce, quella di David McAlmont, che ricorderete assieme a Bernard Butler probabilmente, ma anche altri artisti come Courtney Pike, Craig Ekstrom, Jules Holland o Terence Blanchard. Comunque, lasciamo spazio alla musica, poi magari recuperando i dati dalle playlist di Eclettica. Vi ricordo che potete avere il dettaglio di queste playlist se siete iscritti alla lista nera di Eclettica, scrivendo giulio@radiorockfm.com, oppure le potete recuperare con un ritardo di qualche giorno rispetto a quello che avete invece nella vostra casella di posta grazie alla lista nera. Con questo ritardo di qualche giorno le trovate anche sul sito di Rock FM. Comunque, partendo dal nome dell'artista, usando uno qualunque dei motori di ricerca più utilizzati, sicuramente dal titolo della canzone e dal nome dell'artista riuscite ad arrivare al dettaglio che io non vi do qua in onda. Ormai siamo in un mondo così, no? Ok, ci ascoltiamo quindi David McAlmont con Saving All My Love For You, e così si chiude anche quella che è la terza parte di Eclettica di questa 21ª settimana su Rock FM. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Though I try to resist being last on your list, no other man gonna do. So I'm saving all my love for you. It's not very easy living alone. My friends always tell me, find a man of my own. Oh, but each time I try, I just break down and cry. 'Cause I'd rather be home. So I'm saving all my love for you. You used to tell me we'd run away together. Love gives you the right to be free. You said be patient, just wait a little longer, but that's just an old fantasy. Oh. I've got to get ready, just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. Tonight is the night that I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Eclettica, fine della terza parte.